cipresso. La mia compagna ormai è la morte che mi tiene i piedi di un cipresso. Qualcuno cerca di sconfiggerla, ma non succede spesso. Fa lo stesso, gli dissi, quasi 30 anni non c'ho grilli di vedermi figli spinti. Pulirmi il culo, mettermi da parte. In attesa tua poniamo su di me domande. Con l'ultime carte chiedevo se fosse Dio, diavolo il mandante. Perché col secondo sarei stato latitante. Non c'ho moglie, non c'ho amante, ma spero che qualcuna lasci lacrima a ricordo delle tante. Poi mi dissi tranquillo, meglio un fattone tante che un vecchietto arzillo al bivio. Ed ora dentro un fosso, via con marcio, alcol nel sangue, spada nel braccio. Sarò contorto, mollasto laccio. Uno stile di vita regalatomi dal mondo. In un secondo gioia, poi ne passi sopraffatto. Ti viene una memoria, pensieri nei tuoi cari. Uno sfondo per la storia, fari per i bar più magri. Se non paghi, i tuoi santi son cazzi. Lasci una terra con se frizzi e razzi. La morte. Che se non scherzo e sono spediti, indietro loro non mi avranno più. Lasciate le membra, vedo una bara, il corpo niente rende, neanche esala. Bussa alla porta ed è là che ti chiama. Non piangete per me. Veritas, nomine patri, sia uno spinto. Cresciuto in barriera, sì, troie no al dito. Lasciato testamento all'etilometro convinto. Che meglio fatto che essere un cazzo dipinto. Fino Veritas, marchio di fabbrica, non ho la Lincoln. Giaguare, morse, lago, se fossi straricco. Troie compiaciute per le rendite dovute. Certamente mai avute, per nulla ricercate. Meglio poche, con poche pare. Tanto il bastone dallo signorine che lo fan frattare. Rispettai sempre mia madre, mio padre, che gli odio per gli ebrei, non perché è morto nei lager. Con queste pare non vi posso lasciare. Vi do il saluto, un vaffanculo generale. Se vi può essere di conforto, già c'ho morto, nei cieli assorto. Voi andate a male, forse un giorno mi avrete attorno. Su nei cieli ci potremmo riabbracciare. E chi sta sotto ricordi, un altro figlio di sto mondo, andato a male.